un'ultima notazione post-elettorale e poi vi giuro che la smetto definitivamente. Immagino che avete avuto occasione anche voi in questi ultimi giorni di assistere a un certo numero di interventi televisivi sul campo dei principali leader politici dell'uno e dell'altro schieramento, anzi dell'uno dell'altro e dell'altro ancora schieramento, intendendosi per interventi sul campo soprattutto delle interviste o altre prese di posizione ambientate in piazze o altri luoghi aperti al pubblico, contrapposte tanto per intenderci a quelle realizzate in studio o in occasione dei vari talk show, no? Non so voi, ma finora, fino a questa settimana, gli interventi di questo tipo, che in teoria dovrebbero rappresentare il massimo della spontaneità, come tipici esempi di cronaca impresa diretta immediatamente dopo l'evento, non mi avevano mai completamente convinto. E mi erano sempre sembrati, non avrei saputo dirvi perché, artificiosi, innaturali. E non riuscivo a capire che cosa, ma c'era qualche cosa che proprio non funzionava. Finalmente, martedì o mercoledì scorso, mentre assistevo a non ricordo più quale sproloquio del presidente Dini, dell'ex presidente Dini meglio, ho capito qual era il problema. Parlava l'ottimo Lamberto, circondato da quelli che supponevo fossero suoi collaboratori o seguaci, ma nessuno di loro sembrava prestargli la benché minima attenzione. Non seguivano il suo argomentare, non ne sottolineavano i passaggi come si usa con sorrisi o mosse del capo, non ridevano alle battute e non assentivano alle conclusioni, si limitavano a guardarsi in giro con un'aria estremamente truce ed estremamente sospettosa. E allora mi è venuto in mente che tutti gli altri dirigenti di una qualche importanza, a ben pensarci, si presentano sempre al microfono correttamente inquadrati in piano americano, ma mai da soli, e sono sempre circondati, anzi altro che circondati, sono sommersi da supporters altrettanto disinteressati, o maccioni dalle corporature alcure ad alle spalle uso armadio, dal volto non particolarmente espressivo nonostante la generosa dotazione di baffi, e lo sguardo proteso lontano come se aspettassero l'insorgere di qualche improvviso incidente. E naturalmente una volta inquadrato il problema in questi termini, la soluzione viene da sé, e sono le guardie del corpo. Viviamo in tempi agitati e dimenticati, convinti che il bene del paese o qualche altra causa superiore esigano un colpo in testa ad Alema o uno sganassone a Cecchi Gori, per non dire di peggio, ce ne sono in abbondanza. Per cui è giusto premunirsi, è doveroso premunirsi, ricorrendo a seconda delle disponibilità ai professionisti forniti dalle apposite agenzie, al servizio d'ordine dei partiti se per caso si ha un partito alle spalle, o se necessario addirittura ai corpi armati dello Stato. Anzi, lo telespettatore esperto in sociofisiognomica potrà divertirsi a individuare via via a quale categoria appartengono gli angeli custodi dei vari protagonisti della nostra vita politica e trarne magari le opportune illazioni. Ma resta un particolare, un minimo particolare, che mi sembra valga la pena di sottolineare nonostante tutto, no? Questi omaccioni esistono. Hanno una funzione utile e riconosciuta, rappresentano con tutta evidenza un ingrediente fisso nella vita pubblica e privata dei leader a cui sono addetti e nell'organizzazione delle loro partecipazioni pubbliche e televisive, ma vengono accuratamente trascurati. Nessuno ne parla mai, si fa come se non ci fossero. Anche nel momento in cui la corposità della loro presenza è evidente, ineludibile, come nella ripresa televisiva, tutti si comportano come se fossero perfettamente trasparenti, a dimostrazione del fatto che non si vede soltanto con gli occhi, e anzi con un po' di buona volontà ci si può abituare a non vedere anche quanto sotto gli occhi ti viene ostentatamente messo, come per esempio un omone sui 90 kg e 2 metri d'altezza che visibilmente sovrasta un omino di tutt'altro formato. Ma è su quell'omino che ti devi concentrare, come se ci fosse solo lui in mezzo allo schermo. Intendiamoci, il problema è minimo, Io non dico che l'intervistatore debba cominciare ogni volta con buongiorno onorevole e come sta, mi dica chi sono quei suoi nervoluti accompagnatori e l'intervistato debba rispondergli: ah, mi scusi, non vi avevo ancora presentato le mie guardie del corpo. Sarebbe perlomeno stucchevole dopo un po'. Ma anche questo far finta di niente non soddisfa più di tanto. e non solo perché genera una specie di straniamento della comunicazione, perché proietta una sorta di falsità su un evento che ci viene presentato come vero. In fondo, nel corso di quegli eventi si consumano ben altre falsità. Ma il fatto sta che facendo finta che le guardie del corpo non ci siano, implicitamente si ipotizza un mondo in cui di guardie del corpo non ce ne sono davvero, un mondo di sicurezza e di buone maniere in cui nessuno si sognerebbe di fare del male ai pubblici dirigenti e ai leader politici. E in sostanza, chi partecipa all'evento si chiede di aderire a una visione della realtà sociale che è pur auspicabile al grave difetto di essere altamente irreale. E se alcuni tra i partecipanti all'esercizio di questa finzione traggono un qua certo qual vantaggio, nel senso che gli onorevoli fruiscono dell'indispensabile difesa della loro pellaccia, gli omaccioni, per far finta di non esistere in quel modo, vengono almeno pagati, e speriamo che lo siano profumatamente, come dovrebbe accadere per tutti i lavori e le professioni a rischio, ma gli spettatori, noi, non ne traggono altra utilità che quella di vedersi proporre un mondo diverso e migliore da quello che è. Certo, sappiamo tutti che quello di presentare ai cittadini un mondo diverso e migliore da quello che è un vizietto abbastanza diffuso nel ceto politico, ma forse non riflettiamo abbastanza sul fatto che ormai, per asseverare questo messaggio, i nostri rappresentanti non hanno nemmeno più bisogno di parlare.